Non si tratta infatti di colpire tutti allo stesso modo. Credo che si debba tenere presente ogni situazione ed essere particolarmente attenti ai più deboli. Le preoccupazioni sul debito pubblico non riguardano solo la Grecia. Il 17 giugno l'agenzia Moody's ha annunciato che il rating dell'Italia verrà messo sotto osservazione per un possibile abbassamento. Una decisione che contrasta con quanto affermato dalla stessa agenzia lo scorso 21 maggio, in occasione dell'avvertimento all'Italia da parte dell'altra agenzia di rating, Standard & Poor's. Allora Moody's confermò la sua valutazione sull'Italia. A cascata nei giorni successivi sono finite sotto osservazione di Moody's le società italiane a partecipazione pubblica, 23 tra città e province, e i 16 gruppi bancari più importanti del paese. Fitch, la più piccola delle tre agenzie di rating internazionali, ha invece affermato che al momento non c'è intenzione di cambiare né il giudizio né le prospettive del paese. La percezione di un aumento del rischio paese si è tuttavia diffusa tra i mercati, provocando tra l'altro un aumento del differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi. Jean-Paul Fitoussi, professore all'Istituto di Studi Politici di Parigi e docente di economia internazionale alla LUIS di Roma. Bisogna essere serio. L'agenzia di rating, dopo aver rovinati i piccoli risparmiatori con la bolla finanziaria, con la crisi finanziaria, adesso provano di rovinare i lavoratori, perché le agenzie di rating forzano i governi ad avere politiche fiscali più rigorose di quelle che si devono fare. E la conseguenza di queste politiche molto rigorose è che la disoccupazione aumenta, la precarietà aumenta, e dunque basta, perché se le agenzie di rating erano responsabili, allora un po' di danno che hanno fatto devono pagarlo, ma non è stato il caso fino ad oggi e continuano a fare danni più grossi, perché se tutta l'Europa si mette al pane secco perché le agenzie di rating hanno la fantasia di credere che l'Europa è diventata insolvabile, che non è il caso da tutto, perché sappiamo che l'Europa è una situazione finanziaria molto migliore di quella degli Stati Uniti e del Giappone. Allora non possiamo accettare questo. È la ragione della mia rabbia. Bisogna cambiare questo funzionamento dei mercati finanziari, non lasciare un gruppo fatto dalle agenzie di rating avere un'influenza così forte senza nessuna responsabilità. La pressione e le preoccupazioni dunque vedono in primo piano anche l'Italia. Nei giorni scorsi è stato messo a segno un nuovo record per il premio di rendimento pagato dai titoli decennali italiani rispetto al Bund tedesco. Lo spread ha raggiunto i 222 punti base. In salita e sopra i 281 punti anche il differenziale con la Spagna, a testimonianza di una percezione di accresciuto rischio finanziario nei paesi del Mediterraneo. Il commento di Carlo Gentili, amministratore delegato di Next & Partners. Tornati oltre i record raggiunti a memoria direi a novembre di quest'anno dello spread tra il Bund tedesco e il BTP decennale italiano, in questo momento il titolo di Stato italiano rende circa il 5%, quello tedesco rende il 2,89%, è sotto il 3%, quindi abbiamo oltre due punti di spread rispetto al paese diciamo più forte in questo momento, e non so se diciamo la tempesta è finita, insomma non vedo il contagio. Io penso che tutto sommato la Grecia stessa o comunque qualsiasi paese europeo non possa fallire, insomma mi sembra che siano considerazioni ancora lontane dalla realtà, io credo che nessuno abbia fatto esattamente conti con quello che è un vero fallimento, sarebbe una catastrofe anche se fallisse più piccolo dei paesi europei, quindi non voglio parlare di contagio nel senso del fallimento, contagio nel senso dell'allargamento di spread sì, ma perché ho una visione forse un po' contraria in questo momento, nel senso non è detto che lo spread italiano sia sufficiente in quell'ambito in cui si è mosso fino adesso per soddisfare le esigenze di ritorno che esprimono i mercati, cioè l'Italia e con l'Italia i paesi più deboli, la Grecia, l'Irlanda e così via, hanno beneficiato negli ultimi 10 anni di tassi estremamente favorevoli che i loro fondamentali certo non meritavano. Restiamo in Italia. Dopo la quotazione di Prada a Hong Kong e il dietrofront di Moncler, che alla borsa ha preferito l'accordo con la francese Eurazeo, la Maison fiorentina Ferragamo ha fatto il suo ingresso a Piazza Affari. Un debutto in deciso rialzo, complice la buona intonazione del listino milanese. I vertici del gruppo della moda, riuniti nel salone di Palazzo Mezzanotte, hanno assistito all'avvio delle negoziazioni. Questo è il commento a caldo del presidente del gruppo, Ferruccio Ferragamo. Eravamo tranquilli dei valori dell'azienda, che le sue qualità avrebbero vinto sul vento contro, e siamo arrivati in porto. Il lavoro, sveglia alle 6 e a letto a mezzanotte. Abbiamo girato molto, però ero tranquillo perché avevamo una squadra ben forte, concreta, che ha fatto le cose bene e ha esposto esattamente l'azienda con i suoi valori e quello che sappiamo fare. E per Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.